Carica la macchina con tutti gli strumenti, facci stare tutto, vai a piedi altrimenti. Chitarre, aste, cavi, amplificatori, armi e bagagli, ritagli di fiori. Devi far centrare anche tutti i musicisti, nani, ballerine, avvocati, esorcisti. Questa sera dobbiamo andare a suonare in un locale un po' speciale. Ci ordina di preparare il palco. Mentre noi montiamo tutto quanto, il fonico ci ignora, non ci degna ad uno sguardo. È impegnato con la sua ragazza, lei è molto bella anche se mi sembra pazza. Fonico, non ignorarci, la ragazza è carina sì, ma tu servi qui. Fonico, non farti pregare, non funziona il microfono, non devi aggiustare. Matto ed è anche un po' molesto. Dice che lui nota nel collirio, ma noi siamo stanchi di ascoltare il suo delirio. Cominciamo subito a suonare, quello si avvicina e riprende a disturbare. Noi guardiamo il fonico imploranti, al suo posto appaiono ombre inquietanti. Fonico, non ignorarci, vieni a fare il tuo lavoro qui, devi aiutarci. Fonico, non farmi arrabbiare, la ragazza è carina sì, ma lei può aspettare. Cause it's a brand new trend. you overspend makes sky high demand. This is your backhand. You need to transcend, make it till weekend. Make your perfect blend, it will be your. I don't recommend that you overspend makes sky high demand. This is your backhand. You need to transcend, make it till weekend. Make your perfect blend, it will be your trend. This is a brand new trend. This is a brand new trend. This is a brand new trend. Trend, trend, trend, trend. You can twist your mood. This is a brand new trend. You can twist your mood. This is a brand new trend. You can twist your mood. This is a brand new trend. Trend, trend, trend, trend. living comes for me, so don't run a back and read a book and hold a jack. Soon you know me not fi take no shot from no boy, cause me don't have a plan fi them. And it no mean me a go say no man fi them. Cause if a book them a read and a treat we like clown, who say we have to take it lying down? Knowledge is the power, we control the tower, and rival Elizabeth crown. Yeah, things will be better. Up, up, Mr. Step on elevator. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, then we sing like a bird. Yeah, things will be better. Up, up, Mr. Step on elevator. No matter what the time or the weather. I never give in, no, I never give in, no, and I will always grow as long as I'm living, yeah, I'm living, oh yeah. Now if a poverty in the way, we slap him with a book, you see gloom and dismay. We slap him with a book, all evil same way. We slap him with a book, determination on display. Things will be better, up, up, Mr. Step on elevator. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, let me sing like a bird. You set me life better, up, up, Mr. Step on elevator. No matter what the time or the way. Day in the sun. Said it's been a long, long, long, long day in the sun. Man, I got sport no gun for make them come hunt me down when the troops them deploy. Disrespect all I call man boy. I rather sing one song for them than make my family come sing no song key then. Because enough them sink and I pass along down. That's when you get to take it lying down. But knowledge is the power, we control the tower. So don't make them catch you spellbound, cause things will be better. Up, up, Mr. Step on elevator. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, then me sing like a bird. Things have to get better. Up, up, Mr. Step on elevator. No matter what the time or the weather. Fly with the eagle, then me sing like a bird. Yes. One thing you should know is that I never give in. No. I never give in. No. And if I poverty in the way, we slap him with a book, you see gloom and dismay. We slap him with a book, all evil same way. We slap him with a book, determination on display. Yeah. Qui come tutto scorre, tra un bicchier di vino, una partita a carte, sono l'ultima maîtresse della roulette, la pallina nuota in un bicchiere di stress, ed il pianista suona la sua triste ballata, la rissa fa cornice un'altra bella serata, il suo viso sconosciuto, dietro un poker astratto, fa saltare il banco il mio dolore storto. Stai con me, dolce regina, dietro la prima stella della mattina. Qui resta solo un poco di buono, ma da te mai stato lontano. Stai con me, dolce regina, dietro la prima stella della mattina. Qui resta solo un poco di buono, ma da te mai stato lontano.

Bene. Allora, Conato Davide. Assente. Cominciamo bene. Conato Rick. Via, però. Non c'è. Conato Mario. Presente. Conato Max. Presente. Conato Sandro. Presente. Conato Diego. Ah sì, è presente, sono qua. Conato Murad. Sì, ci sono. Conato Basa. Presente. Sono nato

home and dance in the shadows of my love, where all the monsters came. Maybe in blue eyes in a black shirt, I stay, I hear, I know what to blame. Cause the door is open and the wolf is coming. Let me show you the beauty of this world before it's too late. Cause the door is open and wolf is coming. Let me show you the beauty before I leave you in this place. Moonlight coming to me to help me to see what I lost in the way. Please pretend it's okay to find a place where I can rest. Please pretend it's okay. Shadows of rain come and dance in the shadows of my love, where all the monsters came. Maybe in blue eyes in a black shirt, I stay, I hear, I know what to blame. Cause the door is open and the wolf is coming. Let me show you the beauty of this world before it's too late. Cause the door is open and wolf is coming. Let me show you the beauty before I leave you in this place. Cause the door is open and the wolf is coming. Let me show you the beauty of this world before it's too late. I'm still

fantasie. Lamento scura. We'll be right back.

I've been through. But your patience, boy, and perfect touch got me focused on you and the possibility. Got you here with me. I was broken once. Yes, that's true. Yes, that's but true. Now I'm rocking to a new possibility. Oh, oh. Got you here with me. Parla. loro sono di chi lo fa e non di chi ne parla. Che cosa si nasconde dietro l'apparenza delle persone e delle cose, di ogni evenienza? Se credi che ti stiano dando da mangiare, invece sulle tue spalle si stanno ad abbuffare. Sono avvoltoi che divorano tutto, anche i sogni. pensi che la guerra, quella vera, ti fortifica. Pensi che domani se sei sveglio è già un miracolo. Sei sempre sotto tiro, altro che Baghdad. Altro che Baghdad. Altro che Baghdad. Su, sparate pure, quel blu non fa paura. Resisto alla tortura. Su, sparate pure, bruciatevi lo sguardo. Il colpo a salve è caldo. Poi due fari accesi nella notte, come quelli là. Due cecchini sopra il tetto con la mira splendida. Ti puntano diritto al petto in molto men di un attimo. Resti sospeso tra la vita e la follia dell'ultimo dibattito. Sei sempre sotto tiro, altro che Baghdad. Altro che Baghdad. Altro che Baghdad. Su, sparate pure, quel blu non fa paura. Resisto alla tortura. Su, sparate pure, bruciatevi lo sguardo. Il colpo a salve è caldo. Spiegato anima e corpo e ti amo, vi amo, vi amo. E d'ora in poi non voglio più separarmi da sì, voi. Amore è un termine troppo debole per... Ecco, io ti stramo. Sai, ti adamo, ti abramo. No, troppo debole. Se potessi rimarrei seduto ancora a guardar di nuovo il lieto fine, ma il sogno artificiale che non resiste all'assenza del proiettore. Certo non sarebbe male vivere rassicurati da un copione, ma fuori mi aspetta la realtà

We're talking brains up and front and his shoulders are plenty wide enough to lean on. And upstairs he's got it going after all. Yeah. afraid of monsters. I'm not afraid to die. I'm not the only one to dream that something you can buy. You keep me going forward. You keep me looking back. But will you keep me on the ground? Or will I fail you on the track? I'd love to be a vendor. Put some money on the shelf. I'm not really a seller. I can't even sell myself. I need to be progressing. I need to be a light. People look for leaders. I'm looking for a buy. Half a million movements. Half a million spikes. Half a million nights. But are you satisfied? Tell me what it's like. Tell me what it's like. Because that's what I'm about. I'm gonna need all your attention. And I'm gonna need it now. Trust me with a failure. Trust me, I'm a freak. And trust me, we'll save the world. If only for a week. Half a million earrings against 100 lights. Half a million nights. But are you gratified? Tell me what it's like. Tell me what it's like. Half a million updates and half a million spikes. Half a million nights, but are you satisfied? I don't know what that's like. Yeah, you don't know what it's like. Sit back, I'll try and synchronize my potential. steps we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. I know we're short on time, I know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see, the moment I can see you. To let you know, just to let you know. hear in the wind sounds like a whispered voice who speaks some lovely words to me. Things about you and my choice. It seems we did well when we stopped the rain from falling. I thought it would be a delight to run out of my sight. Whoa, whoa, whoa, you're lost. Whoa, whoa, whoa, to me. Whoa, whoa, whoa, you're lost to me. In the broken heart, who knows, but you know now that all you ever try or do won't change the beat of my mind. I'm on a highway without bounds, happy all the way through. Oh, oh. You're lost to me. Oh, oh, oh, oh, oh. You're lost. Oh, oh, oh, oh, oh. To me. Oh, oh, oh, oh, oh. You're lost to me. Oh, oh, oh, oh. You're lost. Oh, oh. Thank you. and gentlemen, as you know, it is vaudeville night here at the fabulous Cicada Club, and it is time to begin the show! I yearn for the days when I see your face here.

You say you feel like you're always alone. Yeah, you love to pretend, but you've never been one to let others inside your home. And we all have our reasons, but you can't be feeling like you're better off on your own. Cause you and I both know we've traveled down this road so many times before, and we always end up back where we started, broken down and broken hearted. In the morning, we try. vengo per intero. Resto fuori dalla lista. Ma io non ho un domani. Oh no no no no. Riflesso nei pensieri. Oh no no. Ma io non faccio parte. Oh no no no no. Di quelli grandi e veri. Scendo dalla sella tolgo il casco e penso: cazzo, mi fa male il culo. Un vero duro sono io, col cappellino su tutto il reale, con il respiro innamorato. Se ci incontriamo io e te, non ci provare come si spaglia di tutta e balla, sai, sono dei Balcani, niente portarmi, soldi non interessarmi, non voglio mai fermarmi, sono fluorescente, sono radioattivo, un'aura da badante, frenetico e schivo. Oh. Ciao, sono rottami ambulante, discarica balcanica, butto via tutto, discarica balcanica, discarica. Pare. Visto che non siamo niente, possiamo essere tutto quello che ci pare. Non chiamare santoni, no, o gli esorcisti, no. Se mi togli i fantasmi, cosa resta di me? Scemo, scapestrato, nevrotico, psicotico, lurido, malato, puro, normale, religioso, frocio, puttana, coglione, sfondato, empatico, simpatico, tipatico, beh, colto, ignorante, una pecora, beh, franciazzo, che per un cazzo, niente di quello che vedi è me. Che si libera ogni giorno dalle proprie penose guerre civili. Tu sei uno vestitini grigi che hai, è un problema che non ti riguarderà mai. Tu ti ritieni così solido e umano, ma lo sai che fine fai, materiale organico? Godi solo per certezza e potere, allora vai a regnare il cimitero. Ci pare, visto che non siamo niente, possiamo essere tutto quello che ci pare.